baciami piccina con la bocca. E vuole sapere se anche la spirulina, abbiamo detto tutto in ina, e quindi anche la spirulina, infatti ce lo sottolinea, fa bene alle gambe. Bella sbarazzina, quale tentazione sei per me. Andiamo a sentire i mercati. Cara sillaba. Assetto da e biblia ubia iblia ubia. No, non particolarmente. Anche se finisce per ina. Anche se finisce per ina. Non è tra quelle prescelte. La nicolina e la deborina però fanno bene. Fanno benissimo anche la per nicotina, le gambe. Ma la nicotina si fa male. In particolare per le in quantità. Sono qui, sono pronta per incominciare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tempo d'estate, io vado al mare, non mi aspettare. Allora, andiamo pure al mare, non tutti. Tra l'altro questo weekend arriva l'autunno a Milano, se non ho visto male. Allora, noi andremo avanti intanto a parlare di soldi e salute ancora per molte settimane. Gli ascoltatori ci faranno certamente compagnia, come ieri l'amica che ci scriveva da Rodi. Ma è inutile negare che la testa di molti di noi è già ben proiettata verso le vacanze estive, le vacanze della prossima estate. Fra chi riuscirà a fare viaggi lunghi, magari esotici, chi invece si ricaverà qualche giorno in meno, magari in località più vicine e a portata di portafoglio, speriamo comunque che siano vacanze gratificanti e riposanti per tutti. Il tema che ricorre in questo frangente di caccia alle prenotazioni è: ma ci assicuriamo contro i rischi della vacanza o no? Anche se vogliamo scansare il pensiero, è bene che invece un gesto preventivo si compia, quantomeno pensiamoci un attimo, appunto. Ne parleremo oggi nella prima parte di Cuore e Denari. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre telefonate. Cominciate già a dirci e a raccontarci e a comporre il numero di telefono per capire se questo dubbio è venuto anche a voi, se l'assicurazione per la vacanza è un tema che state affrontando in famiglia. E diteci anche se avete mai sofferto di cistite o se questo fastidioso disturbo torna a trovarvi. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Come sapete, la cistite sembra preferire, e lo scopriremo, per ragioni anatomiche e ormonali, le donne, ma non risparmia neanche gli uomini. Quindi nella seconda parte della trasmissione attenzione e regole per prevenire questo disturbo e, se vi viene a trovare di frequente, le indicazioni per tagliare il filo, la relazione con questo fastidioso disturbo. 800 24 00 24, il tema della seconda parte di Cuore e Denari potrebbe essere quando fare la pipì diventa molto faticoso e doloroso. Io non parto. Cosa? Non parte? E se viene davanti non voglio, perché io voglio stare dietro che mi fanno male le gambe, io le devo stenni. E togliamo il sedile. Come il sedile? Ma cosa che vuole? Che ci vuole? Ma che stai a scherzare? Leghiamo il sedile e femmola contenta. Mannaggia, mo basta, sempre io con questo problema di ste gambe, io non ce la faccio più. E allunga le gambe, ripiega le gambe, ristende le gambe, ritira le gambe, ricopri le gambe. Guarda, oh, c'è poco da ridere, che io sono una di quelle che soffre con i viaggi lunghi con le gambe, quindi insomma Sora Lella mi sta molto vicina. Elastiche. Calze, elastiche. L'abbiamo detto l'altro giorno con il professor Agus. E Luca Voledo nella puntata dedicata alle gambe. Benissimo. Quindi, voilà. Allora, ritorniamo invece ai nostri viaggi. Dove andiamo? Quali sono i rischi del viaggio? Su che cosa dobbiamo tutelarci oltre ai gonfiori delle gambe, quindi metterci la calza elastica? Ve lo dice una che banalmente in un viaggio americano avrebbe avuto bisogno di un banalissimo antibiotico, invece non avevo un bel niente dietro a parte due aspirine. Per fortuna che c'era una mia amica che era ben fornita di tutto l'occorrente. Vedi le amiche. Ecco, quindi oggi parliamo di vacanze e assicurazioni. Cominciate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Noi con il nostro consueto taglio molto pratico ne discutiamo stamattina con un amico di Cuore e Denari, che è Andrea Polo, Communication Director di Facile.it, un brand al di sotto del quale c'è anche assicurazione.it, che è il comparatore di offerte del comparto assicurativo. Sì, decisamente sì. Ho detto tutto tranquillo regolarmente. Vabbè. Perfetto. Andrea, i vostri utenti hanno già iniziato a cercare preventivi per formule assicurative per il loro prossimo viaggio? E magari anche dal settore assicurativo è possibile cominciare a capire dove andranno gli italiani quest'anno in vacanza? Hanno di sicuro già incominciato a cercarle, perché il periodo è quello. È propizio, sì, è il più adatto. È vero che le assicurazioni viaggio solitamente vengono fatte soprattutto per il medio e lungo raggio, quindi dai preventivi che vengono fatti ci siamo resi conto che comunque sia si torna a viaggiare. Certo, ecco, è che ci pare già una buona notizia, se anche questo può rappresentare un piccolo segnale della ripresa economica del nostro paese. Allora, quindi ci pare di capire che se uno abita a Milano e va in vacanza a Piacenza, al massimo a Cattolica, a Rimini, diciamo, l'assicurazione può essere anche per certi punti di vista inutile. Poi se uno ce la vuole fare, chiaramente è liberissimo. È chiaro, come diceva Andrea, che le assicurazioni più gettonate sono per chi ha in previsione di fare viaggi lunghi, di lunga durata, di lunga percorrenza, e magari vuole anche proteggere un intero nucleo familiare. Forse il focus deve diventare quello, Andrea. Sì, deve essere più che altro proteggere la propria vacanza, perché un imprevisto la può veramente far andare storta e trasformare quello che comunque sia un momento piacevole, magari un momento atteso da tanto, certo, troppo tempo, in un elemento di fastidio che si ricorda soltanto per quello che è andato male. Quindi si può proteggere se stessi, la coppia, l'intero nucleo familiare, veramente con delle spese ridicole. È vero. No, tra l'altro poi la vacanza può essere rovinata a prescindere magari da un problema di salute che ti può capitare, un piccolo infortunio, ma anche banalmente la perdita del bagaglio già ti manda proprio di traverso tutto il tuo trasferimento altrove. Assolutamente sì. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Raccontateci la vostra esperienza, se una volta è stata utile un'assicurazione che magari avevate fatto così proprio perché magari un altro, un amico, un componente della famiglia avevano insistito in questo senso, o eravate anche un po' scettici e invece è stata utilissima, mano santa. Esatto, oppure se siete fra quelli che partono un po' così all'arrembaggio e poi magari, ecco, capita l'incidente, l'imprevisto, e dito mannaggia se l'avessi sottoscritta. Partiamo da qualche domanda intanto generica, Andrea, poi andremo un po' allo specifico dell'argomento. Nella scelta di una polizza viaggio vacanza, quali sono le caratteristiche a cui prestare maggiore attenzione e perché? Allora, intanto la prima caratteristica è capire se è una polizza viaggio o vacanza, perché c'è una grossa confusione riguardo a questo. Spesso si considerano come polizze viaggio quelle che vengono offerte insieme al biglietto aereo dalle compagnie. È così veramente una quantità di casi ridicola, perché solitamente invece la polizza offerta dal vettore copre soltanto il vettore, quindi unicamente il fatto che venga annullato il volo o che possiamo invece cambiarlo in altra data. La polizza viaggio invece copre tante altre evenienze, quindi dallo smarrimento del bagaglio che dicevamo prima, l'assicurazione sanitaria, oppure anche l'assistenza legale, il rimpatrio ove necessario, perfino la responsabilità civile, perché anche in vacanza può capitare di averne necessità. Non si tratta della responsabilità dell'auto, attenzione, non è l'RC auto che noi paghiamo, è la responsabilità civile se io individuo causo dei danni a cose o persone che si trovano dove vado. Perché l'assistenza sanitaria? Perché in tantissimi stati, noi in Italia siamo abituati ad andare in ospedale e essere curati gratuitamente. Certo. Non è così in tutte le nazioni. Esistono con l'Italia determinati accordi soltanto fondamentalmente all'interno della Comunità Europea, per cui possiamo essere curati gratuitamente. Ma se ad esempio non siamo in Europa, siamo negli Stati Uniti, per dirne una su tutte, anche semplicemente avere un'appendicite può diventare molto oneroso. O un parto prematuro, come ci raccontavi poco fa, che è costato ad una persona di nostra conoscenza negli Stati Uniti ben 12.000 euro. Ecco, quindi, e fino a che non hanno pagato questo nucleo familiare allargato. Una volta verificato il bonifico, hanno mandato via con tanti auguri tutta la famiglia, anche il nuovo nato, però soprattutto in quel caso in cui avevano necessità di assistenza tanto la mamma quanto il bambino, c'era necessità che qualcuno quell'assistenza la pagasse. In genere genere, Andrea, tutti pensano che il viaggio vada assicurato per tutta la sua durata, no? Invece ci sono tante persone che magari viaggiando molto, che vada assicurato per la sua durata. Molte persone invece magari viaggiano molto nel corso dell'anno e preferiscono proprio una copertura di carattere annuale per tutti i loro spostamenti. Secondo te, come possiamo fare una scelta per un'opzione piuttosto che per l'altra? In termini di costi, conviene di più farsi un'assicurazione viaggio singolo o una polizza annuale? La discriminante lì non è tanto il viaggio quanto il viaggiatore, per cui se io sono una persona che viaggia due volte all'anno alle ferie comandate, dico io, allora probabilmente ha molto più senso fare un'assicurazione legata al singolo viaggio, anche perché, ripeto, magari dei due viaggi uno sarà all'estero, l'altro sarà quello a Cattolica, allora non ha gran senso fare le due cose. Però nel momento in cui invece io sono una persona che per lavoro, così come per piacere, spesso sono in viaggio, beh, in quel caso probabilmente è meglio scegliere una copertura annuale che copre me come viaggiatore, indipendentemente dal fatto che io vada in India, vada in Thailandia, vada negli Stati Uniti. Quindi più che il viaggio e il viaggiatore. Cioè, il vostro comparatore che cosa dice? Sono più le scelte legate al viaggio individuale o c'è anche chi comunque preferisce la copertura completa 12 mesi l'anno? Sono numericamente molte di più le coperture singole, perché numericamente sono molto meno le persone che viaggiano spesso nel corso dell'anno, però ci sono senza dubbio, ed è importante soprattutto per loro che facciano una sorta di assicurazione. Un po' io la considero un po' l'equivalente dell'assicurazione professionale. Se certo. La tua professione comunque sia comporta il fatto che spesso abbia la valigia in mano, beh, meglio tutelarsi. Allora, 800 24 00 24, siete già a caccia di preventivi, avete già individuato quella che sarà la meta della vostra vacanza la prossima estate, se naturalmente non andrete in Italia, chiaramente se la meta sarà all'estero magari state accarezzando in maniera un po' più accurata l'idea di sottoscrivere, di stipulare una polizza assicurativa per naturalmente tutelarvi contro ogni eventualità negativa. Raccontateci un po' che tipo di costi state anche trovando in circolazione e sulla base di quale criterio appunto farete una scelta. Andrea, il tema sembra abbastanza spinoso e complicato dei massimali e delle franchigie. Quali le voci della polizza a cui prestare più attenzione e quale il massimale e la franchigia consigliati per queste voci? Allora, visto quello che abbiamo detto fino adesso, penso sia ormai abbastanza chiaro che la polizza va scelta in base al viaggio che facciamo. Faccio un esempio banale: se faccio un fly and drive che prevede tanti scali, è importante che sia assolutamente compresa la polizza che mi copre dallo smarrimento del bagaglio, perché più sono gli scali e più le valigie volano, più è la possibilità che le valigie volino altrove rispetto a noi. È anche importante considerare senza dubbio la possibilità di annullarla la franchigia, che è una cosa che viene offerta da quasi tutte le assicurazioni viaggio, per cui siccome comporta veramente un incremento della polizza di pochi euro, e non arrivo nemmeno a dire di poche centinaia, ma proprio pochi euro, ben meglio probabilmente rinunciare completamente alla franchigia, anche perché immaginate quale potrebbe essere il danno del finire, prima dicevamo, col motorino sullo steccato di una simpatica casa che è nella zona in cui ci troviamo in vacanza. Magari è un danno minimo coperto, non coperto dalla franchigia, e quindi ci troveremmo paradossalmente a dover ripagare noi la staccionata dei signori a cui siamo entrati in casa con lo scooter, invece rinunciando alla franchigia a quel punto noi certo. Siamo veramente senza pensieri. C'è tra l'altro un ascoltatore, Ugo, che ci chiede, è rimasto colpito dal caso che abbiamo raccontato di prima, di questa giovane neomamma che ha partorito con un mese di anticipo appunto negli Stati Uniti, e dietro l'autocompenso per la sanità statunitense 12.000 euro gli è costato questo anticipo. Voleva sapere se poi questa signora è stata rimborsata, non era assicurata, altrimenti non avrebbe pagato tutta questa cifra. Secondo te, se avesse fatto una copertura adeguata, Andrea, un'assicurazione che chiaramente aveva proprio il compito di tutelare una signora in gravidanza, avrebbe rimborsato interamente questa spesa? Ma posto che chiaramente vanno visti singole voci di contratto, io penso proprio di sì, se non con delle franchigie veramente minime. Faccio un caso personale, a me è capitato di subire un incidente sciocco perché sono inciampato su una radice mentre ero in, al primo giorno di vacanza sudafricana, per cui mi sono trovato a dover ricorrere alle alle cure mediche, ma anche semplicemente a dover comprare delle bande elastiche, e sono stato rimborsato fino all'ultimo centesimo 2 giorni dopo l'arrivo in Italia. Per cui ci sono, ecco, attenzione, ci sono 2 tipi di assicurazione in questo senso: quello che prevede il fatto che sia l'assicurazione stessa a rimborsare direttamente, oppure che noi, come era ad esempio quella che io avevo in Sudafrica, anticipiamo le spese, certo, e poi con le fatture, quindi attenzione a non buttare i giustificativi di spesa dopo. Come dice sempre Deborah, conservate tutto. Conservate tutto. Ce l'avevano in carta chimica anche in Sudafrica. Ce l'avevano in carta corretta, per fortuna, e soprattutto anche i referti del medico. Soprattutto, perché se no l'assicurazione, esatto, giustamente dice, ma insomma mi porti queste spese, ma io che ne so se tu ti sei davvero fratturato questa caviglia con le modalità che ci racconti. Esatto, o anche semplicemente se questo farmaco era effettivamente legato a quella, certo, necessità. Scusate, torno un attimo indietro alla signora che ha partorito in America, per dire alle invece giovani mamme, future mamme, che seguono Cuore Denari, di andare a compilare il questionario, perché ecco, nel prossimo appuntamento di Cuore e Denari Expo dedicheremo proprio la nostra attenzione alla dieta in gravidanza. Quindi sia che partiate per l'America, sia che restiate qua, bisogna con la pancia, se avete la pancia, allora Cuore Denari vi aspetta. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Fra un po' inizieremo a sentire le testimonianze dei nostri ascoltatori, fra chi ha avuto una buona esperienza con un'assicurazione viaggio e fra chi invece appunto ha avuto un'esperienza che non è andata a buon fine. Detto questo, è chiaro che poi bisogna su questi contratti leggere tutte le clausole, magari prima di sottoscrivere in automatico un pacchetto così, tanto perché è legato, come dicevamo prima con Andrea, alla compilazione del biglietto aereo su un sito online, magari forse è meglio farsi una sana chiacchierata con un operatore, spiegargli bene la natura del viaggio che si farà e magari ci sanno dare. Non è detto che sia poi a costi maggiori, però una copertura un po', come si dice, la tailor made, no? Proprio costruita su misura, Andrea. Però effettivamente, se scegliamo questa strada, ci costa sì o no un po' di più? Non necessariamente, come dicevi tu, perché noi di facile l'abbiamo detto da anni, non esiste l'assicurazione migliore in assoluto. Le assicurazioni, vale per le RC auto e vale la stessa cosa anche per i viaggi, si devono cucire addosso a chi le sottoscrive, per cui magari l'assicurazione che ci viene data in pacchetto non ci servono determinate cose e ce ne occorrono invece dell'altre, sostituendo quello che non serve con quello che serve magari si può arrivare ad avere lo stesso identico prezzo, un prezzo leggermente più basso o anche un leggermente più alto, certo, però comunque sia, ripeto, si tratta di poche decine di euro, per cui all'interno di un discorso di una vacanza è veramente meglio razionalizzare la scelta, certo, della polizza. Stavo pensando a quello che farò io quest'estate, probabilmente suddividerò le vacanze in 2 tranche, una prima parte europea e una statunitense, però secondo te invece di fare 2 polizze diverse, perché chiaramente appunto i rischi di una parte piuttosto che dell'altra sono diversi, vale la pena farmi un'assicurazione che mi copra un paio di mesi? Alcune compagnie lo offrono, è come se fosse una semestrale dell'RC auto, lì la cosa migliore è probabilmente farsi affiancare da un consulente, per cui fare una telefonata e chiedere cosa convenga fare. Ripeto, essendo una parte in Europa, una parte al di fuori dell'Europa, magari per quella europea, soprattutto se è uno Stato che fa parte dell'Unione, magari la polizia sanitaria non serve neanche, mentre diventa fondamentale, come dicevamo prima, se si va negli Stati Uniti. Allora, qua possiamo fare 2 cose. Salutare Patrizio. Quella la facciamo subito. Patrizio, buongiorno. Invitarlo a sentire con noi i mercati. Esatto. Che dici? Riflettere meglio sull'esperienza che lui ha avuto, così ce la racconta ancora meglio. E allora niente, andiamo. Mercati. Cuore e denari. Beh, a chi non è capitato di avere un bisogno impellente di fare pipì, ma se l'esigenza si ripresenta più volte durante la giornata e se si associa a dolore, bruciore, a quella sensazione di mancato svuotamento della vescica, a un peso, o se notiamo anche la presenza di sangue nelle urine, è un evento che ci spaventa sempre molto, allora potrebbe trattarsi di cistite, un disturbo di cui parliamo oggi. 800 24 00 24 se ne avete esperienza diretta, se è un problema che vi perseguita molte volte l'anno perché ritorna, se avete notato delle correlazioni con la sua comparsa, per esempio quando siete particolarmente stanche o quando avete l'intestino in subbuglio, eccola lì che arriva. Allora chiamateci, 800 24 00 24, torna a trovarci il professor Andrea Salogna, il nostro Andrea di Salute Uomo, che in veste di urologo darà delle indicazioni sia per noi donne che naturalmente per l'altra metà del cielo. A tra poco. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Ma Nicoletta, una cistite dolorosa può avere anche bisogno di un pronto soccorso, se è particolarmente Sì, lo chiederemo ad Andrea, ma quelle emorragiche sicuramente se non altro per il forte spavento che generano, un saltino al pronto soccorso. Ecco, immaginate se questa bella avventura ci capita in vacanza, insomma, se avessimo subito la disponibilità finanziaria per non dilapidare il nostro portafoglio in questo frangente, meglio. Quindi insomma, se siamo coperti dal punto di vista assicurativo, siamo certamente un po' più tranquilli. Un ascoltatore scrive: la migliore assicurazione è quella di cui non hai bisogno. E vabbè, grazie, però insomma, anche perché noi italiani siamo dei gran scaramantici, sappiamo bene che con l'assicurazione abbiamo un rapporto molto conflittuale. Detto questo, poi c'è anche chi ci scrive, come Simonetta da Pordenone: assicurazione per viaggio negli Stati Uniti di alcuni anni fa, mio marito ha preso una botta in testa, siamo andati al pronto soccorso a San Francisco, dopo visita generica è arrivato subito il fax dell'assicurazione e hanno fatto immediatamente raggi, TAC, risonanza, è stato dimesso questo signore con il kit di medicine ed eventuali ricette per farmaci che sarebbero stati necessari, ampiamente soddisfatti. Anche perché tra l'altro consideriamo che quando sottoscriviamo una polizza di questo genere ci viene dato subito un numero di telefono di emergenza contattabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Che noi dobbiamo tenere ben custodito in portafoglio, non mettiamolo in un punto segreto della valigia che poi non ritroviamo quando ci serve. Non dovrebbe essere andata invece tanto bene a due ascoltatori che si sono messi in contatto con noi, Patrizio dalla provincia di Rovigo e anche Leonardo da Firenze. Patrizio, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dico... Buongiorno a voi e grazie per gli argomenti che trattate, che sono sempre attuali e utili. Grazie Patrizio, ci dica tutto. Io durante uno dei miei viaggi in Egitto ho un'ottite, perforazione del timpano, parto sempre con l'assicurazione, anche se vado in Italia si affitto una macchina, sempre con l'assicurato. Ho fatto visita medica, trattamenti, cose varie, ho trattenuto tutto, bollette ricevute, tornato a casa, dopo sei mesi mi hanno rimborsato 40 euro. Cosa le hanno contestato, Patrizio? No, hanno detto che pagavano solo una parte della visita medica, tutto il resto... Evidentemente, guardi, mi sta scrivendo un appunto Andrea Polo, forse c'era una franchigia un po' alta. Eh sì, è quello che dicevamo prima, in questi casi bisogna ben leggere il contratto e vedere qual è la franchigia. Probabilmente Patrizio è rimasto vittima di una franchigia troppo elevata e come anticipavo prima, in realtà rinunciare alla franchigia costa pochi euro in più e quindi in questo caso, se avesse avuto una polizza senza franchigia, Patrizio sarebbe stato rimborsato tutto. Avrebbe pagato tutto. Quindi un po' più alto, però al ritorno avrebbe avuto rimborso integrale. Meglio rinunciarci sempre alla franchigia. Per me sì. Tanto per avere una risposta chiara. Sì. Poi certamente l'importante è che si sappia che questo aspetto c'è, che va considerato. Fatevi due calcoli. No, vecchio detto dei nonni, se si fa una cosa meglio farla bene, per cui a quel punto piuttosto che comunque pagare un'assicurazione, trovarsi nel caso di Patrizio, che poi ovviamente ci si arrabbia, perché se hai comunque subito delle spese e ti vengono restituiti soltanto 40 euro, meglio spendere veramente 5 euro in più, 10 euro in più e vedersi restituito però l'intera somma. Questo aspetto della franchigia è sempre un po' nebuloso in ogni settore assicurativo. Chi abbiamo adesso? Abbiamo Leonardo, ci chiama da Firenze. Buongiorno Leonardo, benvenuto. buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato e complimenti per, davvero per la trasmissione. Grazie Leonardo. Lei dove è andato e che cosa le è successo? Beh, eravamo in Canada un anno e mezzo fa a Ottawa per vacanza. Io ho un'assicurazione sanitaria che copre tutta la famiglia da anni e con diverse volte specificato con la gente la copertura totale di qualunque problematica all'estero che noi viaggiamo. Bene, come succede spesso, mia figlia di 7 anni ha deciso di prendere una bella influenza proprio nella settimana di vacanza, 39,5 di febbre. Sabato mattina il pediatra non c'era in giro, ospedale pediatrico di Ottawa, telefono subito al numero dell'assicurazione. E mi chiede, dice, guarda, l'ospedale pediatrico di Ottawa non è nella lista dei nostri istituti non menzionati, comunque non si preoccupi, si faccia fare tutte le fatture del mondo e poi provvederemo a rimborso. A parte il fatto che prima di arrivare all'ospedale di Ottawa abbiamo verificato sul sito e l'ospedale era nella lista degli ospedali non menzionati, mi sono presentato alla reception, all'accettazione, non hanno preso assolutamente in considerazione la card dell'assicurazione, hanno voluto semplicemente la carta di credito. E la prima cosa che chiedono nel mondo anglosassone se vuoi accedere a un servizio sanitario è la carta di credito, che grazie a Dio ho. Quindi ho misurato la febbre alla bambina, testuale, quello che le sto raccontando testualmente. Sì, sì. Misurata la febbre alla bambina, la pediatra arrivata che ha preso atto che aveva la febbre e ha fatto una ricetta per prendere gli antibiotici, €450. Compresi 10 euro di parcheggio che non mi hanno assolutamente... Leonardo, insomma, abbiamo capito, no, quello che un po' più disturba di tutto quello che lei ci racconta è che lei ci dice era comunque una clinica convenzionata con l'assicurazione, mentre loro sostengono il contrario. Ecco, senta, ha contestato, secondo me qua un reclamo ci stava tutto. No, ma le spiego, cioè, il finale, grazie a Dio sono un po' tignoso, ho ottenuto il rimborso. All'inizio la prima risposta dell'assicurazione di fronte alla produzione di tutta la mia documentazione è stata che non era possibile procedere al rimborso perché non c'era stato un ricovero. Certo. Allora ho detto io, accidenti, io vado all'estero a farmi ricoverare? No, vado all'estero, se mi succede è un pronto soccorso. Allora ho contestato vivamente e alla fine sono riuscito a spuntarla, ma solo dopo diversi tentativi. Certo, sì. Allora sì, ecco, bisognerebbe appunto ricostruire, bisognerebbe capire, non Leonardo, assolutamente non mettiamo in dubbio quello che ci ha raccontato, però insomma diciamo che le assicurazioni italiane sono anche abbastanza specializzate per tirar fuori dei cavilli misteriosi nel momento del bisogno, clausole che noi non avevamo capito bene, che non eravamo stati in grado appunto di interpretare correttamente. A fronte poi di questi due casi terminati non positivamente, abbiamo anche tante altre testimonianze di ascoltatori che invece ringraziano il giorno e benedico nel giorno in cui hanno firmato un'assicurazione. Tutto quello che abbiamo sentito, Andrea, che cosa ci insegna i due casi? Ci insegna, a rischio di essere veramente noiose, di dover leggere bene tutte le clausole, perché quello che dice Leonardo è sacrosanto, è effettivamente una delle coperture sanitarie che comprende soltanto il ricovero. Esiste anche questo, per cui attenzione che invece l'assicurazione sanitaria che sottoscriviamo non consideri soltanto il ricovero, ma qualunque genere di spesa medica, anche quella che, ripeto, ho avuto io senza essere senza dover andare in ospedale, per la simpatica radice sudafricana, sì. Attenzione anche però che non è un rimedio naturale, non ha niente a che fare con il ginseng o simili. Dicevo, però attenzione anche a non farci prendere in castagna dal fatto che magari noi sottoscriviamo l'assicurazione con un brand internazionale, perché il brand internazionale non necessariamente comporta una polizza internazionale, per cui senza dubbio esistono delle grandi compagnie assicuratrici che coprono diverse nazioni, però se noi abbiamo una polizza sanitaria per l'Italia, quello che poi bisognerebbe approfondirlo chiaramente il caso di Leonardo. Mi suona un po' strano che lui abbia una polizza annuale sanitaria su tutta la famiglia che copra comunque anche gli interventi all'estero. Ripeto, secondo me era soltanto un qualcosa che come di più ti copriva il ricovero all'estero, certo. Che è più probabile, però per carità bisognerebbe vedere il contratto. Beh, insomma Leonardo alla fine l'ha spuntata. Allora il tempo a nostra disposizione è terminato, dobbiamo affrontare anche la questione di chi noleggia un'auto a destinazione, ma ci dedicheremo magari una puntata pre vacanze fra un paio di settimane, reinvitiamo di nuovo Andrea con altre raccomandazioni su questo argomento. Mi è rimasto basta una curiosità. Sì. Ma quanto costa? Salcusta, come si dicono. Mi ha fatto fare due preventivi. Mi ha fatto fare i compiti. La Rosciani mi ha fatto fare i compiti. Nonostante la scuola sia finita, lei me le ha fatte fare. Allora io e ho tu fatto... lo sai bene perché hai due figli che segui con io grandissima lo so, attenzione. Lo so. Ho due figli che hanno più impegni di me. E la... Però l'ho fatto. Famiglia, quattro persone, due settimane, copertura totale senza franchigia negli Stati Uniti, viene circa 360 euro a nucleo familiare. La coppia che senza figli invece se ne va in India negli stessi 15 giorni spende complessivamente per due settimane circa 140 euro. Senza franchigia. Sempre. Senza franchigia e come costo totale. E quindi l'India sono 70 testa. Guardate la franchigia e vi verrebbero persino meno. Esatto. L'ultima cosa, siccome no, ci tenevo perché mi ha fatto ridere ieri quando leggevo anche un po' di appunti che abbiamo studiato insieme ad Andrea. Volete noleggiare un'auto per viaggiare quando andate, io appunto ecco, che non partite brava. Con la vostra, noleggiate sul posto, la raccomandazione mi ha fatto più sorridere, ma che è di totale buonsenso. Prima di prendere in consegna l'auto da noleggiatore, verificate le condizioni del veicolo. Ci sono graffi, ammaccature? Ah, sì. Se non vengono segnalati immediatamente, al momento della riconsegna sarà inutile dire c'era già prima, perché quella invece ce la faranno pagare. E anche bene, faranno esatto. pagare salata. Poi quando consegnate, quando vi consegnano l'auto, siete voi che firmate. Quindi a questo punto andate a fare tutto il check up dell'auto, sì, prima di prenderla. Anche sotto le ruote, controllate bene. Esatto. Abbiamo terminato, siete pronti a partire? Partiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi affrontiamo il secondo tema di Cuore Denari. Grazie ad Andrea Polo, grazie. Grazie a voi. Cuore e Denari. Donne, in cerca di guai. No, allora, in cerca di guai non sempre, a volte ci capitano, no? I sempre guai. Così, a dipingerci sempre così, un po' come le donne al volante, bla bla bla. Allora, oggi parliamo di un disturbo, di un guaio che capita spesso nelle donne, i dati parlano chiari, una su due dichiara di averne sofferto almeno una volta nella vita, parliamo, come anticipato, di cistite, è una delle più frequenti infezioni delle vie urinarie, disturbo che però può colpire anche l'altra metà del cielo, non lo dico con soddisfazione ma i dati ce lo raccontano. Prevenire, lo diciamo sempre a Cuore Denari, è meglio che curare, dato che l'estate è una stagione un po' più a rischio, ci portiamo avanti, impariamo tutto quello che c'è da sapere per evitare il pericolo e cioè di confrontarci con questo problema che potrebbe trasformare un weekend di vacanze in due giorni di sofferenza. Salutiamo subito l'ospite che è in linea con noi, il professor Andrea Salogna, urologo e andrologo, che buongiorno. Soprattutto è il nostro uomo di Salute Uomo, sì. L'appuntamento di Cuore Denari dedicato alla salute maschile. Andrea, ci sei? Ci sono, Nicoletta, buongiorno. Ciao. Ciao Deborah. Ciao Andrea, eccoci qua. Andrea, l'andrologo che si esatto. occupa della salute maschile è un po' il corrispettivo del ginecologo per le donne. L'urologo invece è unisex, diciamo così, e noi oggi, Andrea, ci occupiamo di un disturbo che, anche se interessa tipicamente le donne, non risparmia neppure gli uomini. No, purtroppo, no, purtroppo. È molto, sicuramente molto più frequentemente presente nelle signore, ma... esistono al pari infezioni, si chiamano delle basse vie urinarie, che sono proprie dei maschietti e noi uomini, quando ne siamo affetti, abbiamo in linea di massima sintomi parimenti disturbanti, esattamente come voi donne. Anche perché poi gli uomini, Andrea, si lamentano il doppio. Il doppio. No, mi dispiace, io non concordo con questa vostra affermazione. No, concordi anche tu. Perché tu resisti no, al dolore stoico e temerario. Non sono stoico affatto, ma devo dissentire dalla vostra opinione. Va bene, ma tu sei un po' di parte. Comunque, va bene. Andiamo ai sintomi. Okay. Sono tanti e diversi, no? Allora, sì. Mi sembra di essere un po' la Littizzetto. Sentiamoli insieme. Intanto, se vi riconoscete, uomini o donne, se li avete provati, se qualcuno ve li ha riferiti, chiamateci. E soprattutto chiamateci anche se avete un rimedio. Andiamo. Ti capita di avere un improvviso e incontenibile stimolo di fare pipì? Hai bruciore nella minzione? Senti un peso nel basso ventre? Ti capita di avere la sensazione di non riuscire a svuotare completamente la vescica? Hai mai avuto sangue nelle urine? Il tuo intestino fa i capricci e ti dà problemi? Andrea, scusami, ma sembra un po' uno di quei giochi cerca l'intruso. Nella nostra scheda, infatti, abbiamo accennato all'intestino, però non è un refuso. C'è una relazione, ci aiuti a metterla a fuoco? C'è una relazione enorme, perché le cistiti di cui noi parliamo nelle donne sono prevalentemente cistiti da un gruppo di agenti microbici, cioè di germi, di bestiacce, che si chiamano enterobatteriace. Entero deriva proprio dal distretto intestinale, per cui c'è una correlazione strettissima sia anatomica per la vicinanza della vescica, dell'uretra e del distretto genitale femminile con l'intestino, sia perché a questa vicinanza anatomica corrisponde purtroppo una vicinanza funzionale e di tipo patologico, per cui la maggior parte dei germi che troviamo nella vescica, la prima causa si chiama in linea di massima Escherichia coli, che è un germe tipicamente intestinale, vengono proprio dall'intestino, per cui non c'è nessun refuso. Ed è addirittura importante ricordare che tanto più le signore soffrono di stitichezza o di difficoltà di evacuazione dell'alveo, cioè stipsi, come viene scientificamente definita, tanto più alto il rischio. Esatto. Quindi cistite? No grazie. Noi abbiamo voluto intitolare così questa seconda parte di Cuore Denari, in cui giochiamo sulla prevenzione. Se avete avuto un episodio di cistite, siete tra coloro che ne soffrono con frequenza, magari più volte all'anno o in particolare durante le vacanze estive, se vi siete riconosciute nei sintomi descritti dalla nostra scheda, raccontateci e raccontatevi al nostro numero verde, come fa Gianluigi dalla provincia di Varese e poi Giuseppe da Siracusa. Buongiorno Gianluigi, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi chiamo Gianluigi, 51 anni, Varese. Dunque, vabbè, il mio è un caso un po' particolare, perché purtroppo mi è stata diagnosticata qualche anno fa una vescica simile neurologica, quindi come saprà bene il professore, purtroppo devo utilizzare ogni giorno nei mini cateterini dalle 3 alle 4 volte al giorno, e quasi li dovrò utilizzare vita naturale durante. Sì. E questi procurano delle, frequentemente delle infezioni alle vie urinarie. Certo. Ecco. E quindi se c'è un consiglio. Ecco, ma io penso che la domanda di Gianluigi ci permette di affrontare un tema che è molto specifico, però sono sicura che aiuterà tutti coloro che, se non con, proprio con la diagnosi di Gianluigi, devono comunque confrontarsi con cateterini e attrezzini simili, no? E sì, sono purtroppo tante le persone. Sono molte, molte più di quanto non si pensi. Gianluigi ha bisogno di svuotare la vescica, che da sola non sarebbe capace. È come se noi dovessimo aiutare fondamentalmente la vescica a rimuovere il proprio contenuto, che se rimanesse in sede addirittura aumenterebbe il rischio di infezioni. Per cui l'utilizzo dei cateterismi estemporanei deve essere considerato addirittura come capace di ridurre il rischio di infezioni, perché se Gianluigi fosse stato nella condizione di dover tenere un catetere fisso, le cose sarebbero state ancora più dannose in termini infettivi. Purtroppo il fatto di introdurre e di rimuovere quotidianamente, più volte al giorno, come Gianluigi ci ha sottolineato, questi cateterini implica di per sé un maggior rischio di infezioni, nel senso che è più facile che noi le si trasporti all'interno della vescica, dove certo, in teoria le urine dovrebbero essere sterili, perché sterili vengono prodotte dai reni. Come consiglio di massima, laddove non si possano utilizzare condizioni di assoluta sterilità, guanti sterili piuttosto che cateteri assolutamente mantenuti sterili eccetera, è sempre utile almeno lavarsi le mani. Sono consigli banali, ma è sempre utile lavarsi le mani anche con un sapone di Marsiglia, questo potrebbe essere sufficiente, cercando di evitare il contatto con qualunque cosa. Il meglio di queste condizioni è mantenere al pari l'intestino pulito, per cui cercare di evitare la stitichezza anche nei maschietti, vale la stessa regola che per le donne. Esattamente. Proprio perché si va incontro all'estate, come dicevi prima Nicoletta, il rischio è maggiore perché c'è una maggior sudorazione, quindi si perdono più liquidi con quella che si chiama la sudorazione o diaforesi, per cui sarebbe utile aumentare l'introito di liquidi, non dimenticarsi di bere almeno 1,5 litri di acqua nell'arco della giornata, meglio l'acqua che non le soluzioni ricche di zuccheri come le bibite zuccherine. Andrea, fermati purtroppo qui, perché altri consigli dopo il GR e riprendiamo subito dopo. cuore e denari. Ehi, che stai facendo? Stai ancora facendo pipì? Smettila, basta, mi hai sentito, basta, smettila, smettila subito, hai sentito? È pipì. Oggi parliamo di pipì. In linea con noi Andrea Saloni, andrologo e urologo, è un po' il cuore, direi, del nostro progetto Salute Uomo, un progetto che Cuore Denari ha lanciato insieme al professor Andrea Saloni. Adesso torno al naturalmente un team di San Raffaele pazzesco. In cui noi in tempi non sospetti abbiamo pensato di sollecitare l'attenzione degli uomini alla prevenzione, a una prevenzione a tutto tondo. Mi sembra che il messaggio sia arrivato e altro sia stato che anche molto apprezzato, Andrea. Io trovo che sì, che abbiamo avuto una bella idea e che l'idea abbia cominciato a mettere radici a destra e a manca, per cui spero che sia effettivamente sempre più utile per i nostri ascoltatori e per gli uomini che hanno bisogno di stare in salute, appunto salute uomo. Allora, oggi non parliamo solo di uomini, parliamo anche di donne, parliamo di un disturbo, la cistite, già questo suffisso in ite, che è poi quello usato per buona parte delle infiammazioni del nostro corpo, ce la dice lunga. Se poi aggiungiamo che ha il brutto vizio di ritornare nel 30% dei casi recidiva e che l'estate è la sua stagione preferita, ci sono tutti gli elementi per farla diventare protagonista di questa seconda parte di Cuore Denari. 800 24 00 24, chiamateci. Andrea, allora, uomini e donne, tutte e due possono, entrambi possiamo avere problemi e quindi avere questa sintomatologia piuttosto fastidiosa che, ripetiamo, Andrea, è una è caratterizzata in linea di massima da una maggior frequenza nel dover andare ad urinare con una certa urgenza, talvolta con un'impellenza ad urinare che non ci permette di trattenerci e che come tale impone di necessità di avere un bagno vicino, per cui non è infrequente che le donne e gli uomini che soffrono di cistiti, proprio perché, come ben ricordavi tu, tendono a recidivare, quindi a ritornare, sappiano esattamente come sia distribuita la situazione dei bagni una volta che decidono di uscire di casa. Quindi questo è il primo elemento. Purtroppo molto spesso le cistiti sono caratterizzate da bruciore al momento della minzione, quindi quando si va ad urinare, o ancor prima, e il bruciore spesso si associa a dolore. È meno frequente il fatto che ci siano anche tracce di sangue o proprio sangue misto alle urine. In questo caso si parla di cistiti emorragiche, che sono più frequenti nelle signore di quanto non siano negli uomini, ma purtroppo possono comparire anche negli uomini, soprattutto quando all'infezione della vescica si associa anche un'infezione della prostata. In quel caso si parla di prostatiti acute. Un altro sintomo che purtroppo è frequente è il fatto che compaia febbre, soprattutto quando alla cistite, quindi all'infezione delle basse vie urinarie, soprattutto nelle signore, si associ un'infezione che risale fino ai reni. In questo caso si chiamerà cistopielite, molto più severa, molto spesso meritevole di un ricorso al pronto soccorso. Vedi, quando tu mi dicevi ma un attacco di cistite può portarci al pronto soccorso, io mi sono sbilanciato, ho detto di sì, e invece vedi che Andrea ce lo conferma. No, è proprio è purtroppo vero. Molto spesso le persone si spaventano alla presenza di sangue, il dolore... sì. Però il dolore che parte a livello del fianco talvolta viene scambiato per una colica renale, avrai sicuramente dei calcoli, si dice, ma nelle signore, soprattutto nelle ragazze giovani, il fatto che le infezioni possano risalire fino ai reni è causa di viva febbre, che può arrivare a 39 e anche 40 talvolta, con un dolore particolarmente intenso al quale si può associare quella che noi medici chiamiamo sintomatologia neurovegetativa, cioè nausea, addirittura vomito, uno stato di profonda spostatezza e tutti i sintomi classici della cistite. Allora, dove andiamo? Abbiamo tante chiamate al 800 24 00 24. Completato la risposta per Fabio da Rovigo. Sì, no? Mi sembra di sì, vero Andrea? Per il cateterismo? No, per Gianluca avevamo detto sostanzialmente quali fossero un po' le buone misure, le buone pratiche per ridurre il rischio di infezioni. In linea di massima è sempre bene suggerire il maggior grado possibile di igiene nella gestione dei cateterini e dall'altro canto utilizzare una buona idratazione quotidianamente. Certo. Questi sono i due elementi fondamentali. Poi è veritiero negli uomini e nelle donne che esistono alcuni accorgimenti che cercano di ridurre il rischio di recidive. Il fatto di non di cercare di evitare di essere stitici, quindi di avere feci nell'ampolla rettale, riduce certamente, perché come dicevamo all'inizio, la maggior parte dei germi vengono da lì. Allora, abbiamo delle belle domande, sia al numero verde che al 349-238-6666. Allora, cosa facciamo? Un po' di messaggi. Sì. Chiediamo a Fabio da Roviga, Giuseppe da Siracusa di attenderci, perché un'ascoltatrice, Maria, ci scrive, ci prega di parlare di cistite dopo rapporto sessuale, sì, quella che un tempo veniva detta cistite da luna di miele. Adesso le lune di miele non esistono più, se esistono, insomma. Poi, se è trasmissibile. Esatto. Sia da donna a uomo e viceversa, questo è quello che ci chiede Roberto. E Anna Maria ci chiede: il mannosio mattina e sera è preventivo, insomma, aiuta a prevenire la cistite oppure sono solo chiacchiere? Andrea. Le prime due domande che sono molto molto vicine una all'altra. La maggior parte delle donne giovani riferiscono cistiti che chiamiamo postcoitali, esattamente dopo i rapporti. Questo dipende da due condizioni generali. Una prima condizione che è tipicamente anatomica, e l'abbiamo detto prima, la vicinanza del distretto genitale e del distretto urinario. L'uretra è esattamente lì. Peraltro, nelle signore l'uretra è corta, molto più di quanto non sia negli uomini, e ricordo solo, per chi non lo ricordasse, l'uretra è quel canale che trasporta le urine dalla vescica fino all'esterno. Sì. Negli uomini è sicuramente più lunghi, attraversando tutto il pene. L'altro aspetto è che nelle donne non solo è corta, ma è anche rettilinea, e certamente è più facile che si abbiano infezioni che risalgono lungo l'uretra nelle signore di quanto non lo sia negli uomini, dove appunto il tragitto sarebbe più impervio per la forma e più lungo. Si scoraggiano, insomma. Andrea, esatto, si scoraggiano, esatto, un po'. Esatto. Il fatto reale che i rapporti siano causa è legato a mille motivazioni. Le più banali sono quella anatomica che ho appena ricordato, e poi gli anglosassoni ben dicono le infezioni sono legate al thrusting pelvico, che vuol dire al traumatismo che a livello genitale ciascun rapporto penetrativo fondamentalmente viene a provocare. Ma è sicuramente più frequente che compaia nella signora proprio per la maggior delicatezza del distretto che anatomicamente favorisce. Il dato più importante è che le infezioni possono essere trasmesse da uomo a donna, tanto che benché i germi che abbiamo chiamato prima enterobatteriacee non così facilmente passino dalla signora all'uomo e viceversa, è comunque possibile che questo tipo di trasmissione esista. Ci sono numerose coppie che hanno una trasmissione di Escherichia coli proprio su questa base. È più frequente però che la trasmissione di infezione sia di tipo sessualmente trasmessa di germi specifici, l'ureaplasma, il tricomonas, la clamidia. Per arrestare questo circolo, questo movimento da una parte vizioso e doloroso, che cosa si fa? Allora, in linea di massima, una delle soluzioni è cercare di prevenire la comparsa delle cistiti in quanto tale, indipendentemente dai rapporti. Oggi una delle procedure che si utilizza è quella di dare immediatamente dopo il rapporto nelle signore che regolarmente abbiano un'infezione, dopo un rapporto appunto, una singola compressa di antibiotico preventivo rispetto alla comparsa della cistite medesima, che generalmente ha una latenza di qualche ora rispetto al rapporto medesimo. Questo non è che va un po' contro alle indicazioni che dicono che prendiamo troppi antibiotici poi diventiamo c'è l'antibiotico resistenza, cioè non c'è il rischio poi di abusarne di questi farmaci? E bisogna certamente evitare, infatti come prima dicevo, questo è alla luce di tutto quello che abbiamo detto l'elemento successivo all'aver in qualche modo cercato di prevenire l'infezione stessa. Esistono delle modalità. Ad oggi, ad esempio, si cercano di utilizzare dei farmaci che costruiscono all'interno della vescica medesima una sorta di film protettivo, una sorta di Avete presente il Domopac? Sì. Si metta all'interno, questo è banalizzante, ma una sorta di Domopac all'interno della parete vescicale che riduca la probabilità che le braccine che si chiamano fimbrie delle Escherichia coli, ad esempio, siano capaci di aderire stabilmente alla parete vescicale stessa, dando luogo all'infezione. Se io riesco a produrre una sorta di barriera protettiva tra la parete vescicale e l'agente microbico, questo avrà meno possibilità di. Tra le varie forme di prevenzione, il mannosio a cui faceva riferimento la nostra amica è certamente una delle ipotesi da prendere in considerazione. Sono state anche scelte o suggerite delle alimentazioni più ricche in vitamina C, quella che si usava da bambini, forse vi ricordate, veniva dato un prodotto a base di vitamina C che appunto fosse capace di acidificare le urine. Perché? Perché l'acidificazione riduce la probabilità che i germi sopravvivano. È stato anche suggerito a lungo del mirtillo, il mirtillo rosso nel tentativo di. Ora, facendo il ricercatore, purtroppo devo essere anche molto onesto intellettualmente, i dati di letteratura scientifica non sono confortanti a tutto tondo sul fatto che, ad esempio, il mirtillo rosso di cui tanto si è parlato sia la panacea di tutti i mali e quindi effettivamente sia capace di ridurre il rischio di cistiti. Però certamente, siccome oggi si parla di medicina personalizzata, esistono donne nelle quali quel tipo di presidio, come pure il mannosio, come pure la vitamina C, come pure l'uso ad esempio di fermenti lattici che rinforzino o modifichino la flora batterica, soprattutto nelle signore estitiche, tutti questi sono presidi sicuramente utili. Non si può pensare che si applichi un medesimo tipo di trattamento a tutte le donne, evitando così che queste abbiano a tutto tondo un'infezione delle vie urinarie. Questo no. 800 24 00 24, c'è ancora tempo per saltare la nostra barriera rosa, sì. Anche se non siete rose, insomma. Esatto, no, tra l'altro ho preso atto definitivamente che ho sempre sbagliato la pronuncia, l'ho sempre chiamato Escherichia coli e invece professionalmente il dottor Salonia lo chiama Escherichia. Andrea. Però attenzione, questa è la pronuncia che mi è stata insegnata. La maggior parte dei ricercatori, di chi si occupa di questo, continua a chiamarle Escherichia coli. Certo. Chiamiamolo come si voglia, è però è lui. Teniamolo alla larga. Ed è la ragione. Allora, esatto. Alessandra ci scrive: ho notato che quando ho un attacco di colite, spesso mi viene la cistite. È possibile? Sicuramente sì. Esatto. Allora, tenete conto che molte delle signore hanno spesso quello che si chiama colon irritabile, o sindrome del colon irritabile, con tutto un insieme di disturbi che purtroppo si vanno a rivalere sull'organo più debole, che è vicino e che è ancora la nostra vescica. Ma meno male che ci siamo, perché le abbiamo tutte noi. Buongiorno a Giuseppe da Siracusa. Andrea ride, ma non mi ricordo più se è Giuseppe da Siracusa o Fabio da Rovigo. Giuseppe, andiamo, partiamo Fabio da Siracusa. Aveva e poi e arriviamo anche a Marco da Monza. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Eccolo. Allora, parliamo. Allora, io soffro di una IPB da oltre 10 anni. Allora, a suo tempo, quando iniziai, andavo in bagno, diciamo così, pochissime volte. Allora, pensai di fare una visita urologica. In quella circostanza, il medico mi disse se volevo partecipare a una sperimentazione, cosa che io feci a sua volta. Mi fecero 6 mesi di cura e fecero tutti gli accertamenti possibili e immaginabili, anche la risonanza magnetica, via dicendo. Va bene, e con quel prodotto che mi davano andavo insomma bene, una bellezza. E una poi bellezza. Che è successo? Purtroppo quella società di sperimentazione, posso dire il nome della società? Non so se è proprio necessario, comunque tranne le parolacce possiamo dire tutto, dice Deborah. Sì, Giuseppe. Allora, che è successo? Posso dire alla società, no? Sì, vabbè, lei dica quello che vuole, ma vada al dunque. Allora, il dunque è stato che è andato bene. Quella società non si sa che fine ha fatto, però da quel momento iniziai piano piano a peggiorare. Nonostante tutti i medicinali che ho preso, tantissimi tipi di medicinali, quelli che ci sono, posso dire, non so... Sì, Giuseppe, diciamo, allora lei che cosa fa? Adesso va in bagno la notte ripetutamente? Si alza per fare pipì e quindi la prostata sembra impazzita? È questo che vogliamo dire? Perdone, ultimamente io 2 anni sono ho fatto la turpi, vabbè, perdere un po' di tempo, andavo bene. E adesso va di nuovo male. Giuseppe, sentiamo Andrea Salonia, che così arriviamo ad un'indicazione. Ecco, i disturbi che il nostro Giuseppe da Siracusa riferisce sono tipicamente associati a questa che lui ha chiamato ipertrofia prostatica benigna. Questo è il nome che si ascrive all'acronimo IPB. Sono disturbi che poco hanno a che fare di per sé con le infezioni delle vie urinarie di cui parliamo oggi, sono invece il disturbo più frequente negli uomini in virtù di un invecchiamento che è tipico dell'uomo e che è tipico della prostata, perché ricordiamoci che fa parte proprio del nostro corpo e come tale invecchiamo noi, invecchiano anche i nostri organi. Ora è stato ricoverato e ha fatto un intervento chirurgico. Il fatto che persistano dei disturbi è meritevole certamente di una nuova valutazione dal suo urologo di fiducia. Allora, abbiamo Fabio da Rovigo che ci chiede dei consigli al tema alla prostata. Inviteremo anche Gianluca Nicoletti, che tutte le volte che mi vede dice: parlerai di prostata, sì. Parli di nuovo di prostata. Inviteremo anche Gianluca Nicoletti e parleremo di prostata con Andrea Salonia. Fabio, buongiorno. Salve a tutti, sarò rapido. Allora, io ho passato un IPB appunto e volevo capire la differenza tra cistite e IPB nei sintomi, perlomeno. Grazie Fabio, okay. Maschio e femmina. Mi manca di fare solo il nervo pudendo, ho fatto tutto, salve, grazie. Grazie a Fabio, velocissimo, allora, fa il camionista, 30 secondi e poi ci ritorneremo in una puntata ad hoc, Andrea. Allora, i sintomi sono purtroppo in parte sovrapponibili, nel senso che c'è maggiore frequenza nell'urinare, un'urgenza significativa, la necessità di alzarsi durante la notte svegliati dalla necessità di andare a far pipì, ci sono dei disturbi legati al flusso che è sempre più debole e tende addirittura a cadere verso i piedi, talvolta devo spingere con la pancia per poter riuscire ad urinare, una sensazione di svuotamento incompleto. Nelle cistiti tutti questi sintomi sono esacerbati dal bruciore, dal dolore. Quindi è il bruciore e il dolore che fanno la differenza. Torneremo a parlarne. Sì. Intanto grazie ad Andrea Salonia. Grazie molte. A Paolo. Grazie a voi. Noi abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Che di cistite non la sappiamo, non soffre, però, insomma, quindi tutto tranquillo. Ma non si sa, adesso poi sta imparando tutte queste regole di prevenzione, comunque è una bella cosa averlo con noi. Salutiamo Marco Lombardo, Isotta Shen, naturalmente, che ci danno una gran mano e noi torniamo qua prontissime lunedì. Lunedì però sarò un pochino da sola, forse? Sì, no. No, tu sei da sola, non ci sono. Sei tu io. Che vai. Va bene, siamo buon stanchi. Buon weekend a lunedì. Tutti. Ciao, ciao.